Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Terza puntata. Gegé Gullotta, uomo di fervido ingegno, venuto per vie tanto traverse quanto ministeriali a conoscenza dell'imminente arrivo in Sicilia di alcuni reparti militari a scopo di controllo del territorio, aveva avuto un lampo di genio. Si era prontamente rivolto alla benevolenza di chi di dovere, onde ottenere tutti gli innumerevoli e complicati permessi indispensabili. In breve, Gegé poté inaugurare alla Mannara il suo mercato specializzato in carne fresca e ricca varietà di droghe sempre leggere. E il commercio fiorì con grande soddisfazione dei militari, di Gegé e di chi a Gegé aveva accordato i permessi ricavandone giuste percentuali. La spiaggetta di Punta Secca, una striscia di sabbia compatta a ridosso di una collina di marna bianca, era a quell'ora deserta. Quando il commissario arrivò, Gegé era già ad aspettarlo. Fumava una sigaretta appoggiato alla sua automobile. E scende, son voi. Godiamoci dal bicchiere, quest'aria buona. Gegé, come stai? Buono. Tua sorella? Come sta? Mi hanno portato a Barcellona. Lì c'è una clinica specializzata per l'occhio. Mi hanno detto che almeno il destro glielo dovrebbero recuperare. Oh, mi raccomando, quando la senti saluta, non è? Non mancherò. Chiedo che mi parla sempre di te, eh? È solo un nome preferito. Anche po' pace che non sono diventato una persona per bene come te. Anche se stavamo nello stesso banco insieme. Gegé, tu copiavi e basta. Vabbè, ma ora però mi sono preparato bene. Ma puoi interrogare. Quante persone ammesse la Mannara? Una centina. C'è Bottani che russi dopo Rio Geno. Più Manuele che sta lì a badare che non succedono a Bortello. E che è successo l'altro giorno? Da voi io non c'ero. Ad Anna che stava lì a lavorare. Si è spaventata perché ha visto questa BMW che scendeva dalla parte di Mondolusa a Randa Randoma. Ma un momento, chi è questa ad Anna? Una senegalese. Che me la sveglia, eh? Anzi qua, guarda, io ti ho portato nome e cognome veri. E anche l'indirizzo, non casomai tu ci vuoi fare. Ah, la ringrazio. E poi che è successo? Adanna ha visto i due nella BMW che ficcavano. Vabbè, che cosa ha visto esattamente? Ma voi, ma che ti sei scordato come si fa a fottere? Non mi fare perdere tempo, vai avanti. E hanno fatto lei sopra e lui sotto. Poi, quando hanno finito, l'uomo è rimasto al suo posto e la donna si è allontanata lungo il muro di cinta della vecchia fabbrica, verso la strada. Bella femmina, eh? Alta, bionda, elegante, bossa a sacco. Non era cosa da Mannara. Fra l'altro la macchina la guidava lei. C'è altro? Sì. Manuele, mio braccio destro, ha visto arrivare la femmina sulla provinciale e prendere il passaggio da un'auto. No, un momento, l'ha vista proprio così, col pollice, per prendere un passaggio, qualcuno che la caricasse. Da voi? Ma come fai? Come fai? Sei proprio uno sbirro nato. E è proprio questo il punto. Che Manuele non si fa persuaso, perché la femmina non fece segnale. Però una macchina si è fermata con lo sportello aperto per farla salire. Babù, io ti ho detto tutto quello che sono riuscito a sapere sulla faccenda. E te l'ho detto nel mio interesse. Perché per me tu prima finisci le indagini e meglio è. Dai, così poi la gente se ne scorda e tutti torniamo a lavorare tranquilli. Anzi, fammi andare che adesso alla Mannara siamo proprio in pieno business. No, aspetta un attimo, aspetta. Tu che idea ti sei fatto? Io? Ma lo sbirro sei tu. Ad ogni modo, se proprio lo vuoi sapere, a me la faccenda mi puzza. Diciamo che questa femmina è una bottana d'alto bordo, forestiera. Ma ti pare che il loparello non sapeva dove portarsi? E se invece non lo era? Meno che mai, se la sarebbe portata alla Mannara. E poi, a parte il fatto che nessuno affida una macchina che vale quello che vale una bottana, davvero quella doveva essere una da fare spavento. Una che si fa la calata nel canneto senza problemi. Arriva, fotte, l'ingegnere le muore tra le cosce, lei che fa? scende, si sistema, chiude lo sportello e se ne va. Ma ti pare normale? Non mi pare normale. Davo. I pensieri che sono venuti nella testa all'uomo di legge sono precisi ai pensieri che sono venuti a me, uomo di delinquenza. E tu volevi vedere se combaciavano. E ci pigliasti. Difficile che mi sbaglio con te. Saluto. Ciao, Giuseppe, ti ringrazio. A proposito, ma lo sai che eri veramente grazioso oggi alla maniera, mano nella mano con la tua bella? Che hai detto che fate una bella coppia, eh? Gege, vaffanculo. Montalbano si chinò a raccogliere un sasso per scagliarglielo addosso, ma Gege accelerò, mettendo una distanza di sicurezza tra lui e il commissario. Poi alzò un braccio a salutarlo. Alla porta di casa, Montalbano trovò Fazio ad aspettarlo. Fazio, che è successo? No, niente, commissario. Anzi, mi scusi se sono venuto ad aspettarla sotto casa sua. No, ma figurati. Volevo riferirle di una cosa che mi sembra importante. Dimmi. Una cosa che ho raccolto da un collega di Montelusa. Dice, il collega, che un suo informatore gli ha detto che ieri un tale, non meglio identificato, si è fatto tutti i gioiellieri, tutti i monti di pegno e tutti i ricettatori della zona per dare un avvertimento. Se qualcuno si presentava per impegnare o vendere un certo gioiello, avrebbero dovuto avvertirlo subito. E dal modo in cui parlava, le persone interpellate hanno capito che era meglio fare come diceva lui. Ma che gioiello? Una collana d'oro massiccio ricoperta di brillanti, roba che si trova sulle bancarelle a 10-15 mila lire. Solo che questa, commissario, è vera e vale svariati milioni. E chi l'ha persa la rivola a tutti i costi. Ho capito, ma perché dovrebbe interessarmi? Ecco, arriviamo al punto, commissario. Perché ad uno dei ricettatori, il tale, ha detto che la collana forse è stata persa alla mannara nella notte tra domenica e lunedì. Ah. No, dico, commissario, potrebbe essere una coincidenza, però... Vabbè, certo. Dormiamoci sopra, poi ne parliamo domani in ufficio, Va bene, commissario. Ah, Fazio. Sì? Bravo. Dovere, commissario. Buonanotte. Buonanotte. Alle 5:30 del mattino, dopo aver trascorso la nottata continuamente alzandosi e rimettendosi a letto, Montalbano decise un piano per Gegè, facendogli indirettamente pagare il silenzio sulla collana perduta. Fece una lunga doccia, beve 3 caffè di fila, si mise in macchina. Arrivato a Rabato, il quartiere più antico di Montelusa, si diresse per vicoli stretti e tortuosi a Piazza Santa Croce, cavò dalla sacchetta il foglietto che gli aveva dato Gegè. La giovane tunisina abitava al numero 48. Chi è? Polizia! Cosa vuole? Parlarti. C'hai il permesso di soggiorno? Io il soggiorno non ce l'ho. Lo sai, se tu aspettavi qualche giorno, io non ero più qua. C'è un signore che mi vuole molto bene e mi vuole sposare. È disposto anche a pagare. Ma adesso, se tu mi porti in galera, è tutto finito. Come per un moto di paura, la donna lasciò cadere l'asciugamano, portando le mani a coprirsi gli occhi. Gambe lunghe, vita stretta, pancia piatta, seni alti e sodi, una vera femmina, come quelle che si vedevano in televisione per la pubblicità. Dopo un attimo, dall'immobile attesa della ragazza, Montalbano si rese conto che non de paura si trattava, ma del tentativo di raggiungere il più ovvio e praticato degli accomodamenti tra uomo e donna. Vestiti. Io voglio solo una cosa da te. Se tu mi rispondi con sincerità, io me ne vado e tu ti rimetti a dormire. C'è qualcuno che ti ha chiesto se avevi trovato qualche cosa alla mannara? Oh sì. C'è il signor Gigi che ci ha chiesto se troviamo una collana d'oro di portarglielo subito. Anzi, aspetta. C'ho il fotocopia, mi sa. Credo di sì. Guarda, fotocopia del colano. Ah, sai se l'hanno già trovata? No, anche stanotte l'abbiamo cercato. Vabbè, questa la tengo io, eh. Mettiti a dormire. Ma in galera non ci vado allora. Come ti chiami? Adana. Adana, auguri e figli maschi. E così Gegé era servito di barba e capelli. Quello che l'altro gli aveva accuratamente taciuto, Montalbano era riuscito a saperlo lo stesso. E da quello che Adanà gli aveva appena detto, trasse una logica conseguenza. Il commissario Montalbano, la forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Fulvio D'Angelo, Peppino Mazzotta, Fatu Sì. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.